24. Storie di star. Come disse Jean Cocteau, una donna unica. È stata la più grande cantante del XX secolo. Una donna che ha inventato la sua arte. È stato un miracolo. Aveva qualcosa in più del talento, aveva del genio. La maestra di tutti i cantanti francesi. Io credo che tutti un po' abbiano un debito verso di lei. Il 14 ottobre del 63, a soli 47 anni, si spegne la leggenda della canzone francese, Edith Piaf. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia, piccola di statura, esile di corporatura, ma armata di una forza di volontà indomabile e di un carattere d'acciaio. Edith Piaf ama la vita, ma soprattutto la musica. Se non canto, dice, io muoio. La vita con lei è avara, amori infelici e problemi di salute, ma la Piaf è felice solo sul palcoscenico. La sua carriera, però, inizia per le strade di Parigi. Ascoltiamola. Le strade me ne sceglievo io, capisce? C'erano delle strade che non mi piacevano, allora io non ci andavo. Una volta cantavo per strada, c'era una guardia. Si ferma e mi dice, ma insomma non sai che è proibito cantare per la strada? E io gli rispondo sì. E allora lui mi dice, adesso sono obbligato a portarti dentro. Finalmente mi dice, ascolta, sii gentile, ci sono delle altre strade da giù, non è la mia zona, vanno benissimo. Parigi, anni 20. Si vive un clima storico particolare. È il primo dopoguerra. C'è entusiasmo ed ottimismo. Così la testimonianza di Paolo Conte. Era una Parigi comunque preparata all'arte. Parigi in quegli anni, all'inizio del secolo, ha ospitato etnie musicali di tutti i tipi, arrivava chiunque, in tutte le arti e anche in musica erano preparatissimi, erano smaliziati, erano disponibili a rischiare anche. Ma era un'epoca, io credo, felice. Felice e rivoluzionaria. Felice di trovare. È stato qualche anno prima della guerra. Cantavo in una strada vicino all'Étoile, una strada banale e senza passato. Rue Troyon. Si è avvicinato un uomo con un'aria da gran signore. L'avevo notato mentre cantavo. Mi ascoltava con grande attenzione. Ma sei matta? Ma sei matta, mi dice, senza tanti preamboli. Così ti distruggi la voce. Con quella voce, perché non canti in un cabaret? Volevo dirgli che, vestita com'ero, con il mio maglione bucato, la mia brutta gonna e le mie scarpe due numeri più grandi, non potevo presentarmi da nessuna parte. Ma dico solo, non ho un contratto. Se avete da offrirmene uno, provate. Magari è il vostro giorno fortunato. Divertito, mi risponde. Bene, ci provo. Sono lui Le Play. Le Guernice è mio. Va bene lunedì alle 4? Negli anni 20, Edith Piaf e la sua sorellastra Momo girano per le vie di Parigi chiedendo l'elemosina. Cantano per strada per farsi conoscere. La sua voce forte ed imponente attira l'attenzione del piccolo impresario Le Play, proprietario del club Journeys. Sono le 5. Le Play mi aspetta sulla porta. Dà un'occhiata all'orologio e mi dice, prometti bene. Cosa farai quando sarai famosa? Io canto e lui ascolta. Debutti venerdì a 40 franchi al giorno. Ma il nome non va. Sei come un passerotto in Argot e in Piaf. E tu sarai Edith Piaf. Ero stata battezzata per la vita. Piaf vuol dire passerotto nella lingua dell'argot parigino. La Piaf si inserisce in un genere preciso, la chanson réaliste. La sua è una canzone che parla della vita e dell'amore in tutta la sua gamma. L'amore rifiutato, l'amore contrastato, l'amore che non c'è più, l'amore da conquistare. In un contesto di grande dolore e di povertà, rappresentati in ambienti un po' bui. Un demi-monde fatto di prostitute, di ubriachi e di sbandati. Così il ricordo di Charles Dumont, cantante ed ultimo compositore di Edith Piaf. Non si può spiegare la voce, è troppo difficile. L'unica cosa che si può fare è ascoltare. Mettete un disco sul vostro piatto e ascoltate Piaf. Allora si capisce tutto, non si può spiegare, è un dono del cielo. O ce l'hai o non ce l'hai. È fortuna. Ma poi bisogna lavorare. Lei ha lavorato tutta la vita. Diceva, ho una bella voce, ma devo lavorare per cantare ancora meglio. Nessuno si ferma, se no non si diventa grandi. Si impara fino all'ultimo giorno. Quand la jambe nous chauffe, on va faire quatre jours d'abord. L'estensione della voce della Piaf è enorme. Lavora su oltre 2 ottave. Va sugli accenti gravi come su quelli acuti con una potenza sorprendente per una donna minuta, alta 1,47 m e che porta 33 di scarpe. Sono nata in inverno, alle 5 del mattino del 1915, a Parigi, al 72 di Rue de Belleville. O meglio, davanti al 72. Mia madre aspettava l'ambulanza, ma arrivò che io ero già nata. Tutta la mia infanzia l'ho trascorsa tra le povere ragazze della casa che possedeva mia nonna a Lisieux, fino al giorno in cui mio padre è venuto a cercarmi. Faceva il saltimbanco di paese in paese. Io raccoglievo i soldi. Una sera non avevamo raccolto nulla. Allora mio padre dice: E ora la mia piccina canterà. Non avevo mai cantato nella mia vita. Conoscevo solo qualche strofa della Marsigliese, il ritornello, ma cantai. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia della voce più famosa della canzone francese, Edith Piaf. Continuiamo subito dopo la viabilità. Pantera millesimato, l'IRP di Infracomitalia, per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta... Mix 24, storie di star. Rieccoci a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di una delle più grandi artiste francesi, Edith Piaf. Comincia giovanissima per le strade di Parigi cantando la Marsigliese e le canzoni tradizionali. Scoperta dalle Play, nel 32 inizia la sua carriera nei cabaret. Qualche anno dopo il drammatico incidente. Le Play, l'uomo che l'ha scoperta e portata alla ribalta, muore in circostanze poco chiare. È orribile. Luis è stato ucciso. Avverte il vuoto. Mi sento estranea al mio stesso mondo, distrutto in un istante. Senza forza, con lo sguardo di un'allucinata e l'andatura di una sonnambula, vado da Le Play. È sul letto, immobile. La pallottola entrata dall'occhio ha lasciato il suo bel viso intatto. Era il più caro, il solo amico. Non ho più nessuno adesso. Crollo sul letto singhiozzando. La polizia sospetta di me. Sospetta che io sappia chi l'ha ucciso. Mi interrogano per ora. La stessa Piaf è sospettata di essere la mandante o addirittura l'esecutrice della morte di Le Play. Per la centesima volta vi ripeto che non ne so niente. Non ho più studiato una canzone. Da settimane non lavoro più. Non mi interessa nulla. Non spero più in nulla. Sprofondo nella bestialità. Come una piccola lurida bestia nel fango, provo gusto nella bruttezza. Provo gusto a distruggermi. È il mio modo di disperarmi. E come avevano predetto, dopo la morte di Le Play, sono tornata a cantare per strada. E dalla strada chiamo Raymond. Raymond Asso, un uomo brusco e sottile che mi aveva detto ti amo. Raymond, ti vuoi occupare di me? Risponde con una voce che mi mette il sole nel cuore. Lo domandi, è un anno che aspetto. Prendi un taxi e vieni. Sono salva. Edith Piaf fa il primo grande salto di qualità. Il paroliere Raymond Asso le cuce canzoni su misura. Ed è tramite questo paroliere che incontra Marguerite Monnot, una compositrice formatasi al Conservatorio di Parigi. Asso e la Monnot le fanno fare il definitivo salto di qualità. Raymond mi ha trasformato. Lui mi ha insegnato ad essere un essere umano. Ha impiegato 3 anni per guarirmi. 3 anni di paziente tenerezza. Per mostrarmi un altro mondo, oltre quello delle prostitute e dei protettori. 3 anni per disintossicarmi da Pigalle, dalla mia infanzia caotica, depravata, sfortunata. 3 anni per insegnarmi a credere nell'amore, nella felicità, nella fortuna. 3 anni per diventare una donna, e non un fenomeno di cui si ascolta la voce, come si guarda un animale raro nelle fiere degli ambulanti. Raymond Asso conosce e frequenta i più importanti ambienti culturali parigini. È amico di scrittori e di poeti. Conosce anche molto bene il mondo dello spettacolo. prende per mano Edith Piaf e la prepara ad affrontare i grandi palcoscenici di Parigi. Raymond Assaut si batte per me. Tutti i giorni passa ore nell'ufficio di Mitty Goldin, il direttore del musical di Boulevard Passonnier. Ma lui non vuole sentir parlare di me. Goldin lo mette alla porta e Raymond torna. Alla fine è lui a stancarsi per primo. E pur di non vedere più Raymond, ha firmato il mio primo contratto al musical. Assaut conosce gli impresari e le case discografiche. Alla fine degli anni 30, all'età di 25 anni, Edith inizia ad avere i primi grandi successi al teatro ABC, uno dei più famosi dell'epoca, in radio e nello studio Polydor, dove incide le sue prime registrazioni. Rinuncerebbe a cantare? No, non posso. Perché? È la mia vita. Cantare è il più bel mestiere del mondo. Le mie canzoni sono la mia pelle, il mio sangue, la mia testa e il mio cuore, la mia anima. Diceva, una canzone o mi dà un'emozione o non me la dà. Se io non l'amo, gli altri non l'amano. Ho visto delle persone, dei discografici, proporle una fortuna perché cantasse certe canzoni. E io le ho visto rifiutare delle somme considerevoli pur di non cantare certe canzoni che non le piacevano. Potete offrirmi le somme che volete, ma io non la canterò, non è per me. Può darsi che sia una buona canzone, ma non fa per me. N'y va pas, Manuel, n'y va pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne sait pas. Et plus tard, tu le regretteras. N'y va pas. Sono molto difficile nella scelta, ma le canzoni in cui credo le difendo fino alla fine. È il testo che mi colpisce. La musica dà alla poesia l'atmosfera indispensabile. Lei ha sempre avuto grandissimi autori, sia per le musiche che per le parole. E poi c'era lei che era proprio l'interprete assoluta. Anche la stessa gestualità che aveva era di altissima teatralità, ma ridotta al minimo, indispensabile, non c'era nessuna esagerazione. L'istinto del grande interprete è l'istinto di uno che sceglie bene il repertorio. Piaf ha sempre scelto benissimo. Non mi pare mai di aver sentito una canzone sbagliata, comunque forzata o comunque troppo alla moda del momento, banale. Erano tutte fortissime. Avete sentito Paolo Conte. A metà degli anni 40, un altro incontro segna la vita di Edith. Quello con Ivo Livi, in arte Yves Montand, al Moulin Rouge. Un amore folgorante che passa agli onori della cronaca. Passa ore da me a ripetere versi davanti allo specchio, con una matita in bocca mentre prova e mima la sua esibizione. Correggo i suoi gesti, la sua voce. Gli insegno a presentarsi, a salutare. Ma ai suoi occhi nulla è mai perfetto. È uno dei rari uomini che ho visto lavorare per 10 ore di seguito. Ha una forza nel lavoro straordinaria. Alla fine è sulla scena e io strappo il mio fazzoletto a morsi. Improvvisamente gli applausi e i bravò e le urla. Un trionfo. Un trionfo di cui si parlerà per mesi. Ora forse lui può perdonarmi. Yves Montand ha vinto la sua battaglia. Quando Montand inizia ad assaporare il primo vero successo, il rapporto con la Piaf si interrompe. L'errore della Piaf è di non riuscire mai a separare del tutto l'arte dalla vita. questa la testimonianza di Charles Dumont, cantante ed ultimo compositore di Edith Piaf. Penso che sia stata la cosa più straordinaria al mondo. Non c'è niente di più paradossale di Edith Piaf, che ha sofferto in amore come non si può immaginare. Praticamente ha avuto solo sfortuna in amore. Forse perché era troppo esigente, troppo eccessiva, forse era colpa degli altri, ma in ogni caso ha avuto sempre rapporti amorosi difficili e dolorosi. Des rapports amoureux difficiles et douloureux. E questa donna che ha sempre sofferto nella sua vita, la sua canzone più famosa si intitola La Vie en Rose. Dio solo sa se ha avuto una vita in rosa. Ha avuto una vita drammatica e la sua canzone più grande è La Vie en Rose. È un paradosso. Ha scritto anche altre canzoni straordinarie. È un pomeriggio di maggio del 1945. Bevo un porto in un bar sugli Champs-Élysées. Sono con la mia amica Maria Michel. Cerca una canzone per lei. Perché non ne scrivi una tu? Mi dice. Canticchio il tema, le piace, ma mancano molti versi e non c'è un titolo. Scrivo su un pezzo di carta due versi. Quand il me prend dans ses bras, je vois les choses en rose. Marianne fa una smorfia. Les choses? E se mettessi invece la vie? Buona idea! La vie en rose. Il titolo è tuo. Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. Ho cantato La Vie en Rose 2 anni dopo Maria Michel. Sono felice di aver scritto questa canzone per lei. Felice per lei. Ma rimpiango un po' ogni giorno di non aver creato La Vie en Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Mix 24. Storie di star. Rieccoci a Mix 24. Oggi parliamo di una grande diva francese, Edith Piaf. È il 1946 e dopo successi come La Vie en Rose e Milord inaugura la prima tournée negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non mi hanno amato subito. Volevo riprendere la nave. Gli Stati Uniti non la conoscono. È troppo lontana dal mondo artistico americano. Gli americani sono show, stress, piume e cancan. Edith Piaf è sobria. Indossa un semplice vestito nero e quando canta, recita. Ma alla fine, il riconoscimento artistico arriva. Così la ricostruzione dello scrittore Emmanuel Bonini. E poi un critico scrisse: se voi la lasciate partire, fate la più grossa stupidata della vostra vita. Ed è stato così che poco a poco anche Marilyn andò a vederla. Peccato che non ci siano foto di quel giorno, ma la segretaria di Edith Piaf mi ha raccontato che Marilyn era lì, indossava una t-shirt rosa e il suo maquillage era magnifico. E dopo è arrivato tutto il pubblico e fu una cosa folgorante. Volevo riprendere la nave e senza Virgil Thompson l'avrei ripresa. È un critico drammatico e scrive raramente sugli artisti del music hall. Ma oggi la mia voce è sulle prime pagine di tutti i grandi quotidiani di New York. Oggi Virgil ha scritto che l'America non deve lasciarmi partire con un insuccesso, altrimenti sarà il pubblico americano a dar prova della sua incompetenza e della sua stupidità. L'energia di cui ho bisogno. La tournée deve andare avanti. E stasera canto alla Carnegie Hall, il tempio americano della musica. J'ai mon dimanche qui est à moi, c'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. È il 1947. Edith incontra l'amore più importante e drammatico della sua vita, il pugile Marcel Cerdan. Queste le parole di Edith Piaf e la ricostruzione del regista Claude Lelouch. È il 47. Sono a New York. Mi presentano Cerdan ad un cocktail. Marcel prepara la sua prima campagna americana. Io sono in piena replica della mia tournée. Siamo due francesi a New York. Due francesi senza amici e che si annoiano. Sono rimasti insieme due anni. Tra tutte le storie d'amore che ho avuto la fortuna di conoscere, questa è la più bella. Edith Piaf e Marcel Cerdan sono stati, quando io ero bambino, i miei primi eroi. Mi hanno fatto sognare. Cerdan era l'uomo più forte del mondo. Edith Piaf, invece, è la prima persona che mi ha parlato d'amore. A casa mia, quando si parlava d'amore, si chiudevano le porte e si diceva che era ora che andassi a letto. La sola persona che aveva il diritto di parlare d'amore a casa era Edith Piaf. Erano i dischi di Edith Piaf. Io avrei voluto essere l'amante di Edith Piaf e avrei voluto essere Marcel Cerdan. Per la prima volta nella mia vita mi sento donna e questo lo devo a te. Il mio cuore aspettava te. Ed ha cominciato a battere il giorno che ti ho amato. Dicono che non hai mai combattuto così bene come da quando mi conosci. Vorrei davvero che fosse vero. Vorrei riuscire a darti forza. Il nostro è un incontro benedetto. Dio ci ha fatto trovare. Lo so, ne sono sicura. Queste le parole d'amore della corrispondenza di Edith Piaf con Marcel Cerdan. Marcel Cerdan combatté a New York per il titolo di campione del mondo. Edith va a pregare in una chiesa e dice: Dio, vorrei che questa sera Marcel diventasse un campione e sono disposta, se lo diventerà, ad essere felice con lui soltanto per un anno ancora. Edith Piaf diceva che tutto ha un prezzo nella vita. Niente è gratis. E ci sono molte persone che fanno questo genere di accordi quando vogliono qualcosa. Si fa un patto con il grande regista, là in alto. Deve restare un segreto, ma lo fanno tutti, nei momenti difficili, quando ci si abbatte o ci si sente abbandonati. Si fanno dei voti. Questo accordo si chiama voto. Un voto è un contratto che si fa con il grande regista. Edith Piaf era abituata a questo, lo faceva spesso. Nel settembre del 1949, Marcel Cerdan muore in un tragico incidente aereo. Così la testimonianza dell'impresario e amico Lou Barrière. Lei arrivò nel salone, ci vide e Marcello non c'era. Era una donna perspicace. Che succede? Aveva notato le espressioni costernate. Che è successo? E nessuno parlava, nessuno diceva niente. Dimmi, Lulu, che c'è? È successo qualcosa? È ferito? Che è successo? Bisognava pur rispondere e io risposi: è morto. Lei si sentiva responsabile. Si sentiva responsabile perché l'aereo che doveva prendere Marcel Cerdan era completo. E Edith Piaf, grazie alle sue conoscenze, chiamò Air France e disse: ascoltate, Marcel Cerdan deve partire per forza. Air France ha chiesto se c'erano passeggeri che sarebbero potuti partire il giorno dopo per lasciare salire Marcel Cerdan. E una coppia alzò la mano e si salvò. L'aereo non arrivò mai. Fu una vera tragedia greca alla francese. E trovo che sia una storia d'amore esemplare, perché è probabile che se lui fosse sopravvissuto non sarebbero rimasti insieme. È probabile che, come tutte le coppie del mondo, avrebbero conosciuto tutte le piccole miserie della vita. È vero che le storie d'amore più belle sono quelle che terminano male, perché terminano male prima di finire male. Così il ricordo di Edith Piaf e del cantante Charles Dumont. Questa sera io canto a New York, al Versailles. Soffro un martirio che nessuna parola è abbastanza forte per descriverlo. Non sono altro che carne, un'anima condannata a morte. La nostra vita non ci appartiene più. Il coraggio è arrivare fino alla fine, ma resisterò fino alla fine. Perché questa sera canto in memoria di Marcel Cerdan. Canto per lui. È forse questo che mi impedisce di ammazzarmi. Lei non si è mai consolata per la morte di Marcel Cerdan. Ogni volta che una canzone poteva essere un omaggio a questo amore meraviglioso vissuto con Marcel Cerdan, lei l'ha cantata. Anche se Mon Dieu l'abbiamo registrata tra il 1961 e il 1962, molto dopo la morte di Marcel Cerdan, ma lei era ancora terribilmente disperata per la sua perdita, per la perdita di quest'amore, il suo più grande amore, l'amore della sua vita. Non ho ratto il colpo. Mi sono drogata. Ho l'inferno addosso. Ce l'ho sulla pelle. Ma starò subito meglio. Dopo ho la sensazione di rinascere. Rimango sdraiata sul mio letto, inebetita, ma alla fine sedata. Spendo fortune per la mia dose quotidiana. Non so cosa farei se non avessi il denaro. Ma ne ho. Io guadagno milioni. I miei spacciatori lo sanno bene. Ne approfittano. Dopo la morte di Marcel, il suo più grande amore, Edith non riesce a riprendersi. All'inizio degli anni 50 ha un incidente in auto con il suo amico e paroliere Georges Moustaki. Per combattere il dolore, la Piaf inizia la somministrazione di morfina e cortisone, che le creano una forte dipendenza. Questa è la testimonianza di Moustaki e dei ricordi di Edith Piaf. Io guidavo. Lei mi aveva aggredito perché io non avevo voluto accontentarla. Abbiamo discusso molto animatamente. Eravamo molto stanchi, eravamo in tournée, pioveva e un camion ci ha tagliato la strada. Abbiamo avuto un incidente grave. È stata una conseguenza della sua eccessiva energia, troppo pressante. Non si rilassava mai. È l'ultimo giorno della terapia. Oggi non avrò nessuna iniezione. Il giorno più lungo e più terribile della mia vita. Dalle 11 del mattino alle 5 della sera urlo come una matta. Morto le lenzuola, mi contorco nel letto, rantolo, ho la schiuma alla bocca. Pazza per questo atroce bisogno. questo richiamo di tutto il mio corpo che vuole la sua droga. Il dottor Migo mi chiede con la sua voce mite: volete un'iniezione? L'ultima. Quattro infermieri mi impediscono di gettarmi dalla finestra. No, urlo. Voglio guarire. Già dalla fine della guerra la Piaf frequentava intellettuali, artisti e scrittori. Un nome su tutti è Jean-Paul Sartre. La Piaf viene subito accolta a braccia aperte. Jean Cocteau, scrittore aperto ad ogni sperimentazione artistica legata al surrealismo, al dadaismo, giornalista, drammaturgo, pittore, intuisce, conoscendo la Piaf, la grandezza di quest'artista al punto tale da scrivere un atto unico intitolato Les Belles Indifférents. Je t'aime. Johnny, et c'est ta force. Johnny, toi, si tu étais tu prétends que tu m'aimes. Mais tu m'aimes pas, Émile. Si tu m'aimais, tu ne me ferais pas attendre. Tu ne me tourmenterais pas à chaque minute à traîner de boîte en boîte et à me faire attendre, je me ronge. Je suis plus que l'ombre de moi-même. T'as un fantôme. Un vrai fantôme. Un fantôme couvert de chaînes, de toutes les chaînes que tu m'accroches. La prima volta che ho fatto teatro, ho recitato Cocteau. Azzardo e chiedo. Naturalmente aggiungo, non si tratterà di un grande affare. Io non mi vedo in un'opera di tre atti. Uno solo mi basterà. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi. Au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny. Siamo nel 1960 e la Piaf entra in uno dei periodi più bui della sua vita. Tenta il suicidio, stanca e malata, non ce la fa più. Eppure vuole lo stesso entrare in scena e canta malissimo. Così il ricordo di Edith Piaf e la testimonianza di Georges Moustaki. È atroce. Sulla scena accecata dai riflettori, il sudore alle tempie, il cuore battente ad una velocità folle. Devo aggrapparmi al microfono per non cadere. Ricomincio a cantare, ma subito mi fermo. Non riesco a ricordare le parole della canzone. C'è un lungo silenzio. Ho paura. Il pubblico ride. Piango. Era una persona che viveva intensamente 24 ore al giorno. Era una donna di passione. Una donna assoluta. Mangiava poco, dormiva poco. Aveva bisogno di parlare continuamente ed aveva bisogno del mondo intero. Era molto esaltante, ma anche molto difficile lavorare con lei. Sono stato un anno intero con lei. Avevo 25 anni quando ho cominciato a lavorare con lei e dopo solo un anno ero totalmente consumato. Volevo assolutamente interrompere, riposarmi. Questo ritmo troppo intenso, senza luce, era troppo per me. Le ho detto che volevo fermarmi, riposarmi. Lei mi ha detto, se vuoi fermarti, te ne vai. E io sono andato via. Eravamo a New York. È stata 3 anni senza parlarmi. Poi un giorno mi ha telefonato e ci siamo ritrovati. E quando è morta hanno trovato una mia foto nel suo portafoglio. Fino all'ultimo, anche se debilitata nel fisico e nella mente, Edith impone la sua forza di volontà e continua ad innamorarsi. A 47 anni un nuovo incontro, un ragazzo molto più giovane di lei, Theo Sarapo. Così Edith Piaf ne parla in un'intervista. Ho bisogno di molto coraggio per parlare di Theo Sarapo. Ha scoperto qualche nuovo talento? Sì, ho scoperto un ragazzo che fino a 2 mesi fa non aveva mai cantato. Non era affatto dotato. L'ho visto subito. Ma siccome era molto simpatico, gli ho fatto delle domande per cercare di conoscerlo. E così è divenuto il mio segretario. Poi un giorno l'ho fatto cantare e mi sono resa conto che facendolo lavorare era un ragazzo che nella canzone poteva fare qualcosa di buono. E lui non solo ha superato le mie speranze, ma lo ha fatto con una rapidità folle. Mais quand tout est fini, c'est Ho bisogno di molto coraggio per parlare di te, oh Sarapò. Di colui che potrebbe essere il figlio che non ho avuto. E invece è l'uomo che amo. Uno di più? No, l'ultimo. A meno che non mi abbandoni. So bene quello che ci attende. Lo scandalo. Perché Teo ha 27 anni ed io 47. Ora so che ho un motivo per sposare Teo. Sono felice. Non lo faccio perché le vendite dei miei dischi scendono e devono risalire in un modo o in un altro. È più semplice di questo. Ben più sensazionale. Teo mi ama e io lo amo. Sì, io lo amo. Oui. All'uscita della chiesa ortodossa dove la nostra unione è stata benedetta, la gente, la mia gente urla: viva Edith, viva Teo! Ho la sensazione di chi, su un treno, vede improvvisamente il paesaggio dei suoi sogni, dove vorrebbe vivere, costruire la sua casa. Ma il treno, lui lo sa, non si arresterà e il paesaggio scomparirà. Non ho più paura del futuro, di ciò che può ancora accadere. Sono felice e pronta, pronta al seguito della mia vita. Non ne conosco la fine. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Ho detto tutto. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Luglio 1963. Edith Piaf si ammala nuovamente. Questa volta è una broncopolmonite. Nonostante le condizioni precarie di salute, continua con una vita di esagerazioni. L'11 ottobre del 1963 muore a Place Cassier, nel sud della Francia. Così il ricordo del regista Claude Lelouch e dello scrittore Emmanuel Bonini. Non ha amato che l'amore, per tutta la vita. Ha amato la canzone, certo, ma a condizione di cantare canzoni d'amore. Ha vissuto tutta la vita pensando: un giorno ci sei, un giorno no. La vita è un soffio. Lei avanzava, aveva un accendino e incendiava tutto dietro di lei man mano che avanzava. Bruciava la vita, la consumava. Niente in tasca, niente davanti, niente dietro. Andava avanti così, come un piccolo uccello. E così è andata via a 47 anni. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait. rien.